Siamo qui con Roberto Sassi, Maurizio Sicuro e oggi raccontiamo com'era Piazza Verdi negli anni, anzi nel 77, o negli anni lì attorno al 77. Quindi vediamo la piazza com'è oggi, quella parte com'era, abbastanza simile ora, lì dove c'è la cooperativa libri universitaria. Beh, la piazza era più divisa, nel senso che c'era una fila di fittoni che chiudeva dall'angolo del palazzo del 25 fino all'angolo qui dell'incrocio con via Petroni, e qui in quella parte qua della, tipicamente due volte al giorno c'era una fila biblica che è stata illustrata anche da Andrea Pazienza proprio all'inizio delle tavole del ciclo di Pentotal. Era la coda della mensa ed era uno dei posti che occupavamo più spesso, trovando delle cose incredibili. Poi io non sono mai entrato in mensa. Sei mai entrato? No, io ci ho trovato dei topi, ne abbiamo visti diversi. Era proprio un ambiente, appunto, un'antica scuderia rinascimentale, insomma, non molto adatto per immagazzinare delle derrate, quindi molte derrate si avariavano facilmente e la qualità della mensa era terrificante proprio. Si ci faceva di tutto pur di non andare a mangiare lì, sia per la coda biblica sia per la qualità. Mentre subito di qua dalla volta, qui c'era il posto che avevamo occupato, qui c'era il bunker. Quindi oggi c'è la stazione dei... Ma vedo che adesso è tutto, sembra dismesso anche come tale. Sembra abbandonato. Però sì, questo era un posto che occupammo nel 76? 76. Che ufficialmente era la sede, almeno noi la chiamiamo così, sede dei collettivi politici autonomi, soprannominato il bunker per via degli spazi angusti, perché era molto piccolo, a dire la verità, però noi riuscivamo a starci dentro in tanti, devo dire. E oltre a starci dentro in tanti, avevamo la fortuna di avere tavoli e seggiole, per cui spesso e volentieri, oltre a essere una sede politica, era il nostro punto di ritrovo, ci sparpagliavamo fuori con... le seggiole a chiacchierare. Oltre alla politica c'era anche il fatto che stavamo bene in compagnia, quindi quello era il nostro luogo dove passavamo un'infinità di tempo. Io, tra parentesi, la ragione per cui in mensa non sono mai andato è che abitavo a 200 metri da qua, quindi almeno ogni tanto mangiavo a casa. Invece il bunker era proprio un ritrovo aperto? Il bunker era sì, cioè praticamente penso a parte 3-4 ore in piena notte, non sempre, però era sempre aperto. Avevamo le chiavi non so in quante decine di persone, ecco, per intendersi. E sì, funzionava un po' da sede politica, un po' da magazzino di vari materiali. Ci facevamo anche un laboratorio di serigrafia, i manifesti li stampavamo qua. Con il sistema che si utilizzava allora, molto semplice, di serigrafia, però efficace, e sì, lo utilizzavamo anche appunto come laboratorio tra le varie cose. E sì, era bunker anche perché c'è le mura molto spesse, c'è un'unica finestrella con le grate, così, è proprio un posto dove ci sentivamo abbastanza protetti. Poi c'era una cosa bellissima, non so se te la ricordi, che era praticamente qua, un metro per un metro, sarà stato qui, guarda, dove c'è, davanti alle colonne, c'era la signora che vendeva le noccioline limoni. Ah. È vero, me lo dimenticavo. C'era forse però anche una fitta camere. Non lo so, questo non me lo ricordo. Appartamenti, però era una leggenda. Però era qui da sempre, perché io abitavo qui dal 67 e quindi quando passavo per andare a scuola, quando andavo a scuola da studente, da scuola superiore, quel baracchino c'era sempre stato, è rimasto lì fino a quando lei non è morta. Quando è morta lei, voglio dire, il baracchino l'ha preso e l'ha portato via. Ed era di un'importanza strategica, perché con la composizione chimica dei lacrimogeni dell'epoca, che poi vennero addizionati di ammoniaca e poi adesso sono altre componenti chimiche molto più tossiche e aggressive, ma con i lacrimogeni di allora il succo di limone sotto gli occhi aveva proprio un effetto, perché aumentava la lacrimazione, quindi aumentando il film lacrimale si resisteva meglio al lacrimogeno. Quindi era funzionale. Quando prima delle manifestazioni si faceva un passaggio, poi la sera si prendeva le noccioline, prima delle manifestazioni i limoni, era una fornitura stabile. Passiamo di fianco. Quindi questo è il bunker, sì. Occupava lo spazio sia di dove ora c'è la postazione dei vigili dismessa, sembra dismessa, sia anche questa parte. Diciamo che stavamo spessissimo fuori quando il tempo lo permetteva, ma essendo sempre in tanti, con uno spazio angusto, voglio dire, spessissimo stavamo fuori. A parte il fatto che passavamo spesso dal bunker al bar, a dire, con questi. Poi invece quest'altro locale che vedi è quello che ufficialmente, almeno la definizione, era la sede dei collettivi politici studenteschi, se non sbaglio, giusto? Che poi in seguito, proprio nel 77, cambiò, come diciamo definizione, come appartenenza politica, cioè gli stessi, una parte degli stessi vennero via da, facevano riferimento a Lotta Continua, vennero via a Lotta Continua e formarono un organismo autonomo per i fatti loro, che si chiamava Collettivo Jacquerie, se non sbaglio. E anche questo esattamente aveva lo stesso ruolo che aveva per noi il bunker, anche loro notte e giorno erano sempre lì. Forse noi un po' più gaudenti, sì, comunque, ma molto comunque risolvi, sì. Nonostante la contiguità fisica, politica, adesso dopo gli anni eravamo amici allora, nel senso che c'era un rapporto fraterno da compagni, però c'era anche sempre questa tensione, questa competizione che non di rado sfociava proprio le mani, che non cambiava un granché, insomma, cioè non è che ce la prendessimo poi più di tanto se arrivavamo alle mani, eravamo abbastanza, c'era una fisicità anche nei rapporti, ecco, non si smetteva di essere compagni anche se ti prendevi a cazzotti, e sapevi che, cioè, anche se ti prendevi a cazzotti più di tanto male non ti facevi, ecco. Sì, no, questo è vero, no. È ogni tanto facevamo discussioni accesissime e quindi ci scappava, vedi, speriamo non che non è disabitata nel frattempo la sede, perché Ci sono ancora i vigili, hai visto? Vigili. Sì. Va bene, quindi proseguendo poi verso lì, con l'imbocco con... Guarda, lì Petroni. Il bar. Siamo qui. Il bar era il piccolo bar, si chiama piccolo ancora piccolo bar? Ancora sì, bar piccolo. Sì. È ancora quello. Ecco, tieni conto, soprattutto nei periodi invernali, dove in realtà eravamo tanti, ci faceva fatica a star fuori, spesso e volentieri era... Non dico che facesse da succursale, però... Quante riunioni abbiamo fatto a piccoli... È vero, sì. Tra parentesi, sempre con... ci hanno sempre sopportato pazientemente tutte le varie gestioni, devo dire. Comunque ci sopportavano, perché ci dovevano subire. Eravamo buoni clienti, ma anche clienti da tenere buoni, ecco, erano le due cose. Consumavamo, però stazionavamo molto. Poi più avanti, dopo il piccolo, c'è la libreria. Dunque, la libreria non c'era, c'era lo storico Canton Zen, che venne saccheggiato durante l'insurrezione del marzo. Cioè, quando la piazza fu occupata, dopo l'assassinio di Francesco, un po' come gesto, diciamo così, dimostrativo, un po' anche perché stazionavamo qua, eravamo qua da giorni, resistevamo con le barricate, avevamo bisogno di mangiare e decidemmo di mangiare bene e quindi di entrare, di mangiare e di bere molto bene. Mi ricordo soprattutto bevvi molto bene la cantina del Canton Zen, che era dove adesso c'è la copisteria lì c'erano proprio le cantine, cioè dal ristorante si entrava dove adesso c'è la libreria, ed era un ristorante carissimo. Sì. Ci veniva Zanghi, il sindaco, a mangiare qua, quando per lui era praticabile la zona. E poi appunto lì c'erano solo taverne e cantine, era un locale di servizio. C'è il confronto fra i magazzini delle mense universitarie e la stiva del Canton Zen, avendoli svalisati entrambi, posso dire che era notevolmente vantaggioso per il Canton Zen, quello senz'altro, nonostante anche quello sia un locale forse più antico ancora delle scuderie, però sì, i prosciutti erano molto migliori, molto meglio conservati, sì, decisamente, ecco. Mentre lì più avanti, quindi niente, diciamo, c'era sempre lo spazio del Canton Zen. Sì. Qui in centro piazza, anzi più o meno forse qui, c'erano i totem. I totem di pomodoro. Ora non ci sono neanche più i segni per terra perché hanno rifatto la pavimentazione, sì. Però quindi più o meno erano qui. Più o meno qui in centro. Un ricordo su questi totem. Io devo dire, personalmente non li ho mai amati, li ho sempre considerati fuori, non tanto come sculture, perché in sé, in generale, poi anche successivamente, quando ho avuto modo di conoscere un po' meglio l'opera di Pomodoro, così, mi è sempre piaciuto come artista. Li ho sempre visti senza senso in uno spazio come questo. Tuttora li vedrei bene in un giardino pubblico, li vedrei bene io in uno spazio verde. Li hanno messi al Parco del Cavaliere. Sì, decisamente meglio, direi, come collocazione, adesso non ho ancora avuto occasione di vederli. Qui era il posto dove ci si appoggiava, ma tra l'altro erano anche abbastanza luridi. C'erano delle specie di canalette intorno alle colonne, sempre piene di acqua, di mozziconi, di altre schifezze, per cui se ti ci sedevi ti sporcavi, perché erano proprio scomodi anche. E la decisione, quando ci fu durante il convegno, di utilizzarli come strutture portanti per un tendone dove c'era la sala stampa del movimento, così, anche il fatto durante i giorni così dell'inizio del 77 di dipingerli, di farne appunto dei totem, cioè ci fu un riuso, e in quel contesto erano decisamente più gradevoli, almeno per come la vedevo io, sì. Sposavano meglio con la situazione che c'era, le scritte, i manifesti, cioè, c'erano strati di carta sui muri di almeno 5-10 centimetri, ecco, immaginati proprio tutto tappezzato di carta. Sì, infatti, a te piacevano i totem qui in piazza? Ma guarda, ormai ci eravamo abituati a avere lì in mezzo, quindi l'unica comodità che avevano è che con la base quadrata che ci stava in fondo era comodo per sedersi, non lo so, ma altro, ma obiettivamente fra lo sporco che ci stava intorno, il fatto che un po' noi, ma un po' molti altri, ci avevano scritto sopra, attaccato sopra manifesti, volantini, di tutto eccetera, bah, stavano lì come tre alberi morti di mezzo. Sì. Mentre qui davanti, come sempre, qui abbiamo il Teatro Comunale, che penso più o meno. Beh, il Teatro Comunale, guarda, è una di quelle cose dove in effetti, obiettivamente, qui intorno ci sono sale, cinema, eccetera, fra il 76 e il 77 abbiamo fatto diverse assemblee dentro il cinema, per esempio, o sale che stavano qui intorno, compresa la sala universitaria. Il Teatro Comunale è una di quelle cose dove in realtà c'è sempre stata una forma di rispetto, non so mica. In effetti non è un grande contenitore, ha un suo ruolo, se tu pensi il 76, sì, 76, inizio 77, questa famosa manifestazione con l'assalto, tentato assalto alla Scala a Milano, quindi con questo ruolo che aveva il teatro per antonomasia, che rappresentava la cultura milanese, invece il Teatro Comunale di Bologna in realtà non, per noi non ha mai avuto, voglio dire, abbiamo avuto una sorta di indifferenza che ha fatto sì che col teatro avessimo nessun tipo di rapporto, in realtà. È sempre stato così, non si è neanche mai posto il problema di... Era neutro, uno spazio neutro. Però c'era la fermata dell'autobus lì davanti, per me era più significativo per la fermata dell'autobus che non per quello che c'era dietro, non si vedeva un gran struscio, ecco. Ci fu per degli anni, ma anni, almeno 2 anni, via Zamboni sventrata, ti ricordi quando rifecero la pavimentazione? C'era praticamente una trincea qua davanti, io non ho mai capito se furono i lavori così lenti oppure era, come dire, fare una specie di trincea che isolasse la piazza da, non so, ecco, ti ricordo che allora la zona era aperta al traffico, per cui era un parcheggio, sì, sì. Verde era un parcheggio. Per cui in effetti quando hanno messo i fittoni, ah no, è vero, noi parcheggiavamo perché la catena era aperta anche qui dentro, è vero, in effetti è cambiata, beh, voglio dire, al di là del teatro che è rimasto uguale, il resto della piazza è leggermente, beh, adesso è molto più asettica, è molto più vuota, sì, non sembra quasi una piazza, se non ci fosse il teatro, veramente triste. Vero? Sì. Ma anche da quando hanno rifatto la prima della pavimentazione, io mi ricordo che qui comunque ci si sedeva, si veniva, l'anno scorso qui era molto più piena, adesso ancora non ha ripreso forma. Non so, non so dire, senz'altro ci sono meno punti d'appoggio, perché non essendoci più i fittoni, non essendoci più altro che spazio, c'è un attimo di spaesamento forse. Però direi che abbiamo fatto il tour. Sì, beh, guarda, abbiamo nel 76 preferivamo, ad esempio, invece che stare dentro il piccolo bar, stavamo davanti al caffè del teatro, quello che sta sull'angolo, perché in effetti aveva i biliardi. È vero. E quindi e degli spazi grandi, cosa che il piccolo bar non aveva. Quindi l'abbiamo utilizzato, credo, per un anno e mezzo, era l'alternativa. Bar di legno, quello poco di su, c'era un altro, c'è tuttora un barettino, adesso non, senz'altro è cambiata la gestione, perché era già abbastanza anziana all'epoca. Era l'altro bar, che era il bar della spia, perché sospettavamo che il barista fosse una spia. Però era una diceria, anche quella non l'abbiamo mai presa sul serio, tant'è che ci andavamo, insomma. Non ci formalizzavamo neanche su quello. Una cosa che c'era senz'altro, che forse c'è anche adesso, ma i sistemi sono migliorati. Vedi le feritoie del campanile della chiesa? Sì. Da lì c'era una telecamera puntata, per cui c'è la questura che peraltro ha già messo fuori dei vecchi filmati suoi di repertorio, ha un punto di vista, aveva un punto di vista sempre sulla piazza. Lo sapevamo, stavamo sempre in guardia perché da lì ci vedevano. Sono dei filmati anche quelli di 50 anni fa, li hanno dati già alla Cineteca, chissà se dessero questi sarebbero documenti storici importanti. Sì, sì. Sarebbero importanti, sì. Chissà se ci sono. Va bene. Se vuoi considerare sulla piazza anche l'ex bar Gogliardo che stava lì sull'angolo, quello era in origine, infatti era un bar. Fino al 67, dal 68 in avanti il bar è stato chiuso, non si capiva quale sarebbe stata la destinazione finale, se non idealmente poteva essere quella per l'università, e quindi per alcuni anni è rimasto vuoto, murato, eccetera, fino a quando, però non ricordo l'anno esatto, un gruppo di femministe buttò giù il muro e lo cominciarono a utilizzare. E lo cominciarono a usare come sede per fare le riunioni dei gruppi femministi. Tanto è vero che quando dicevano ci vediamo fra di loro, dicevano ci vediamo al Gogliardo, perché quello si chiamava Bar Gogliardo in origine. Ma tieni conto che un po' prima ancora tutta quella strada, via del Guasto, c'era l'ufficio postale, c'era una trattoria, tutte cose che prima, il loro primo cambiamento grosso l'hanno avuto nel 68 quando l'università si è ampliata. Perché Piazza Scaravilli, Economia e Commercio, arriva proprio nel 68, viene inaugurata. E il secondo grande cambiamento è dopo il 77, perché in realtà, diciamo tra virgolette, eliminati noi, cambia completamente, la piazza finisce poi in mano a... dire finisce in mano forse è un termine un po' ampio, però si riempie di spacciatori, di... cioè cambia completamente, perché che è di solito la classica destinazione delle piazze, perché sono o ci sta la gente che ci vive, o altrimenti purtroppo... Lì ci fu qualcosa di più probabilmente, adesso lo dico come sospetto che ho sempre avuto, ma ci sono stati in quegli anni vari punti di ritrovo tipici del movimento, dei compagni, così. E all'inizio per esempio era sotto le due torri, poi cominciò a diventare una zona in cui sostanzialmente, diciamo così, la questura chiudeva un occhio sullo spaccio d'eroina, mettiamolo in questo modo, ok? Per cui c'era un gran giro di eroina. Ci si spostò civilmente, diciamo così, su Piazza Maggiore, all'angolo con Piazza Nettuno. Lì l'eroina cominciò a arrivare a fiumi, tant'è che il bar all'angolo, fra piazza, come si chiama? Bar Vittorio, bar... quello all'angolo... Non me lo ricordo. Il bar che c'è all'angolo fra Piazza Nettuno e Piazza Maggiore, ok? Dava via, aveva forato tutti i cucchiaini, perché se no glieli fottevano. Allora, per mescolare il caffè uno poteva usare un cucchiaino forato, per scaldarsi l'eroina no. Ecco, questo per dire, arrivava a pacchi l'eroina. Ci spostammo sostanzialmente da Piazza Maggiore a Piazza Verdi, che di solito era prevalentemente abitata di giorno. Cominciamo a abitarla anche la sera, ok? E cominciò a arrivare l'eroina a fiumi qua. E lì ci fu, una, secondo me, anche una serie di azioni, anche alcune un po' forse eccessive, non lo so, però senz'altro molto efficaci, sia da parte nostra che di quelli che erano allora i gestori del bar piccolo, proprio per allontanare una campagna contro la diffusione d'eroina, contro lo spaccio. E ebbe anche un risalto sul Carlino, no? Nel senso che cominciarono ad andare alcuni spacciatori all'ospedale, cominciarono ad avere risalto sulle cronache queste azioni, e il Carlino si chiese: ma com'è che la questura non interviene? La questura non interveniva perché in Piazza Verdi, appunto, doveva esserci contiguità sostanzialmente fra il punto dove si poteva con una certa tranquillità spacciare eroina e il punto in cui si riuniva il movimento, dove c'era la maggior concentrazione di compagni. E la cosa fu estremamente efficace come strategia, perché l'eroina cominciò proprio davvero a arrivare a fiumi. E non può essere successo un passaggio del genere senza complicità a livello di gestione della repressione dello spaccio. Cioè, è chiaro che è stato lasciato fare in gran parte questo. E Piazza Verdi diventò inabitabile, resistemmo per molto tempo, ma fra quello, da una parte l'eroina, dall'altra la repressione, perché anche il bunker lo chiudemmo quando ci fu l'ultima ondata di arresti, che ci avevano legato tutti praticamente, e anche quei pochi che erano rimasti fuori, che potevano avere le chiavi, non si azzardavano più a entrare in sede,